in primo piano. Martedì 19 aprile, la scelta del Sole 24 Ore è sulla situazione delicata finanziaria, allarme per i conti USA, questo è il titolo di apertura. Mentre la scelta di tutti i quotidiani, la maggior parte dei quotidiani, è proprio di aprire con la vicenda del duro monito del capo dello Stato. Ignobili i manifesti anti-PM, così titola il Corriere della Sera. I manifesti sono quelli spuntati a Milano, no? Sapete la vicenda, via le BR dalle procure. La Repubblica, Napolitano difende i giudici. Per la Stampa, Napolitano basta esasperazioni. Per il Messaggero, giustizia siamo al limite. E i titoli sono più o meno così. Per l'Unità, ignobili è il titolo, con sullo sfondo proprio questo manifesto, via le BR dalle procure. Per il Manifesto, collera, giocando sulla parola colle con la foto di Napolitano, il colle è infuriato anche per il Riformista. I giornali invece, Libero punta proprio sull'Europa e la Francia, l'Europa è una truffa. I popoli si ribellano, così Libero mette insieme la vicenda libica, la vicenda immigrati e anche il voto in Finlandia. Mentre il giornale attacca Montezemolo, dopo Monte Carlo, Montezemolo, il vizietto della casa. Montezemolo, il presidente Ferrari imputato per abuso edilizio e falso. Vedremo anche il Fatto Quotidiano, invece, scaricatori di porco. Questo è il titolo di apertura, vedremo poi perché. Da cosa voglio partire come segnalazione? Beh, da una vicenda inquietante che mette in luce il Corriere della Sera in prima pagina. Massacrò la fidanzata, va in permesso premio. Succede per il delitto che forse ricorderete, di Alenia Bortolotto, 26 anni, uccisa dall'imprenditore Ruggero Jucker, 44 anni, a Milano. Ebbene, il Corriere con Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella racconta che Jucker ha ottenuto il primo permesso premio 9 anni dopo il delitto, un delitto che fu atroce. Meno di 9 anni dopo il giorno in cui, al grido di sono Bin Laden, assassinò con 22 colpi di coltello da sushi la 26enne fidanzata Alenia Bortolotto, gettandole un pezzo di fegato in giardino. E a 2 anni dallo scadere dell'espiazione dei teorici 16 anni inflittigli come seminfermo di mente, il 44enne imprenditore della ristorazione Ruggero Jucker ottiene il primo permesso premio. L'ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano ieri, dandogli la possibilità di uscire dal carcere di Bollate e trascorrere in libertà, per la verità, poche ore, 10 ore, accompagnato da un volontario e con l'obbligo di fare tappa da un medico. La vicenda giudiziaria poi ricostruita, lo ricordate? Primo grado 30 anni, in secondo grado la difesa giocò la carta procedurale del patteggiamento in appello e dunque pena scesa a 16 anni, poi c'è l'indulto, dunque sconto di 13 anni, dunque da 16 a 13 anni, poi una volta in carcere si comporta da detenuto modello e dunque ha diritto ogni 3 mesi dallo scomputo di 45 giorni di liberazione anticipata. Insomma, con tutti questi calcoli, la fine pena sarà nel 2013, dunque tra un paio d'anni, ma nel frattempo ha ottenuto questo permesso premio. Permesso premio che raccontano Ferrarella e Guastella, per la verità, è stato più volte rigettato in occasioni precedenti dai giudici, perché già lo aveva chiesto Jucker, ma sulla sua pericolosità, o meglio sulla sua non pericolosità sociale, i giudici avevano avuto dei grandi dubbi. Questa volta invece il Tribunale di Sorveglianza ha dato la possibilità di uscire per 10 ore in permesso premio a Jucker. Questa vicenda la racconta il Corriere a pagina 25. Voglio invece saltare sulla Stampa per raccontare un fenomeno che, per la verità, c'è da un po' di tempo in America, in Gran Bretagna, nei paesi anglosassoni è molto più diffuso, ma si sta diffondendo sempre più anche in Italia, è quello del crowdfunding. Di cosa si tratta? Beh, hai un'idea? Lancia la colletta online. Magari abbiamo delle idee, che ne so, fare un documentario, incidere un disco, fare un tour, fare uno studio per il quale però mancano i fondi, mancano i soldi. E allora è nata questa idea, è sempre più diffusa per la verità, questa idea di lanciare la propria aspirazione, il proprio sogno online su alcuni siti specializzati che fanno, appunto, consentono di fare il crowdfunding, cioè la raccolta di fondi tra la gente normale, gente che si appassiona al vostro sogno, gente che crede in quello che volete fare e decide di finanziarvi. E allora eccoci qua, la stampa racconta quali sono i siti, racconta anche alcune storie di chi ha fatto un disco, di chi come questo giovane Paolo Casalis voleva fare un documentario sulle Langhe ma non aveva i soldi, è riuscito a raccogliere così e a fare un documentario che si intitola Langhe Doc. Ci sono anche i meccanismi di psicologi che dicono che la folla è molto più premiante rispetto al singolo e dunque nella folla si possono attirare molti fondi, microfinanziamenti. Per esempio la regista Alison Clayman ha realizzato un documentario importante sulla vita di Ai Weiwei, che è un artista cinese, tra l'altro arrestato anche a inizio aprile, artista, architetto cinese, considerato un dissidente in Cina. Cioè ci sono persone che hanno, grazie a questo crowdfunding, realizzato idee che altrimenti non potevano realizzare. E allora i giornali mettono in grande risalto il duro monito ieri del Capo dello Stato, che ha preso spunto da quei manifesti via le BR dalle procure a Milano, apparsi in campagna elettorale a Milano, per mandare una lettera al vicepresidente del CSM Vietti per definire questi manifesti ignobili. E poi ha parlato anche di un limite nel dibattito sull'amministrazione della giustizia oltre il quale possono insorgere le più pericolose esasperazioni e degenerazioni. E da qui, insomma, ne nasce tutto lo sviluppo del dibattito sui giornali, tanto che in prima pagina del Sole 24 Ore Stefano Folli, nel suo commento quotidiano Il Punto, si chiede: la legislatura resterà e resisterà fino al 2013? Scrive Folli, ha quasi il sapore di un messaggio alle Camere la lettera mandata da Napolitano, perché certo il bersaglio immediato resta lo sciocco manifesto e il suo autore, quello politico però è assai più ingombrante, conduce dalle parti di Palazzo Chigi. D'altra parte l'idea di Berlusconi è palese: radicalizzare al massimo lo scontro, trasformare il normale conflitto maggioranza-opposizione in una contesa all'ultimo respiro tra maggioranza e magistratura, attribuendo a quest'ultima un rilievo politico di fatto. Ma a questo punto, scrive Folli, torna la domanda cruciale che già si era posta nelle scorse settimane: è pensabile andare avanti in queste condizioni fino al 2013? La risposta ufficiale degli ambienti governativi è sempre la stessa: sì, perché c'è una riforma della giustizia in gestazione. Eppure tutti sanno che i passaggi decisivi sono altri. A Milano e a Napoli Berlusconi ha bisogno di un risultato squillante, soprattutto a Milano. Se le cose dovessero andare male, la collana governativa rischia di sgranarsi in modo irreparabile. D'altronde tutti sono un po' i giornali con gli occhi puntati a capire come Berlusconi abbia reagito a questa esternazione del Capo dello Stato. In realtà Berlusconi ieri non ha reagito ufficialmente. Leggendo i giornali un po' si vede come la reazione rimanga sotto traccia. Berlusconi non arretra ma evita lo scontro aperto. Questo a pagina 5 del Corriere. Secondo Marco Galluzzo, forse fosse per lui direbbe che se l'aspettava, che è persino d'accordo con Napolitano. Fosse per lui si leverebbe, come fa in privato, più di qualche sassolino dalle scarpe, indicando nel Presidente della Repubblica un arbitro troppo tiepido con le violazioni altrui e troppo inflessibile con le iniziative che invece a lui il Cavaliere sono riconducibili. Direbbe queste cose Berlusconi, ma è convinto che è meglio fermarsi un attimo prima dello scontro aperto. Così anche per La Stampa il silenzio del Premier spinge il Colle a intervenire, mentre per Repubblica nel retroscena di Francesco Bei c'è sotto traccia quello che Berlusconi definirebbe il duello finale. La scudisciata lo colpisce mentre riunione con i suoi avvocati. Non ho nulla di cui rimproverarmi, questo avrebbe detto come prima reazione Berlusconi. L'intervento che ho fatto a Milano lo pronuncerei di nuovo. E questo Lassini, cioè questo avvocato che è quello più indicato per aver messo questi manifesti, nemmeno lo conosco. Saranno i nostri elettori a rispondere a Napolitano. Sta di fatto che tutti però ricordano che, insomma, queste frasi sui metodi brigatisti da parte dei magistrati, ricorda Repubblica, sono state attribuite a Berlusconi in questa cena che ha fatto qualche giorno fa con alcuni corrispondenti della stampa estera. Frasi che anche Folli dice sono state attribuite a Berlusconi, cioè i metodi brigatisti di alcuni magistrati, e frasi che Berlusconi non ha smentito. Racconta, ricorda Repubblica, uno dei giornalisti testimoni di questa scena. Sembrava indemoniato, ci disse che le Brigate Rosse usavano il mitra come i PM usano oggi il potere giudiziario. Anzi, aggiunse che l'attacco dei PM è persino più pericoloso per la democrazia rispetto a quello delle BR, perché viene portato da funzionari pubblici. Parlò di eversione. Sta di fatto che questa vicenda, insomma, davvero... ora diventa anche un po' intricata nei suoi protagonisti, perché intanto c'è una rivelazione che dà il Corriere della Sera, che Luigi Ferrarella, pagina 6, racconta di come l'inchiesta tocca ora su chi abbia messo questi manifesti, tocca i vertici del PDL Lombardo, perché tra gli indagati c'è anche ora Giacomo Di Capua, 30 anni, secondo il sito del governo è il capo della segreteria di Mario Mantovani, che è sottosegretario agli interni, o meglio ai lavori pubblici, credo. Ma oltre a essere, sì, alle infrastrutture e ai trasporti, oltre a essere sottosegretario è anche il coordinatore regionale del PDL Lombardo. Ebbene, indagato il suo braccio destro, secondo l'azienda che ha avuto l'incarico di affiggere questi manifesti, sarebbe stato proprio l'input di affiggere questi manifesti dal capo della segreteria di Mantovani, che per la verità in un'intervista sempre al Corriere a pagina 3 dice: per carità, siamo impazziti, non esiste alcun coinvolgimento del partito in questa vicenda, lo dico nella maniera più assoluta. Insomma, il cerino sembra rimasto in mano a questo avvocato Lassini, colui che si è assunto la paternità di questo gesto, perché è a capo dell'associazione che ha firmato questi manifesti, e che ora però in una serie di interviste, una per esempio a Repubblica, intervistato da Franco Vanni a pagina 6, dice: se mi fanno arrabbiare vuoto il sacco, non faccio un passo indietro come mi chiede la Moratti, sono pronto a resistere se mi arrabbio tanto da raccontare. Non voglio fare da capre espiatorio, mi escludono perché sono indagato per un presunto reato di opinione, mentre in Parlamento ci sono dei ladri condannati. E non parlo del PDL, ma parlo di tutti i partiti. Quello slogan è forte, quello via le BR dalle procure, ma riprende quanto detto da Silvio Berlusconi sul brigatismo giudiziario di certi magistrati. Quindi anche l'autore di questi manifesti, insomma, dice: abbiamo ripreso alcune cose che ha detto Berlusconi. Anche sul Giornale, intervistato a pagina 4, meglio non intervistato, ma comunque a pagina 4 c'è questa frase di questo Lassini, che ora evidentemente è stanco di fare da capo espiatorio, dice: non mi fate incazzare, se mi incazzo faccio la lista degli inquisiti in Parlamento. Vabbè, insomma, questa vicenda, tra l'altro ne parleremo alle 8:20, ripeto, avremo ospite il figlio del giudice Emilio Alessandrini, che fu ucciso da prima linea, dai brigatisti di prima linea, nel 1979 a Milano. L'altra vicenda giudiziaria, certo, oggi devo fare una segna stampa in gran parte dedicata a questo, è quella che riguarda la vicenda del processo Ruby, perché c'è questa novità con Nicole Minetti, che ha presentato le sue memorie difensive con il suo avvocato, e in qualche modo tutti i giornali raccontano che in queste memorie difensive c'è una sorta di scaricabarile. Non portai io Ruby ad Arcore, una sorta di scaricabarile nei confronti degli altri due coindagati o coimputati, vale a dire Lele Mora e Emilio Fede. Emilio Fede che si arrabbia in due interviste, prima al Corriere e una al Messaggero: è una manovra contro di me, ci vuole lo psichiatra per quella ragazza. A meno che non voglia puntare a guadagnare credito coi magistrati, nella preoccupazione che dall'inchiesta possano emergere altre cose, dice al Corriere Emilio Fede. Quali cose? Chiede Marco Cremonesi. Droga forse? Io non lo so, ma non capisco perché si debba insistere con questa versione che la stessa Ruby ha poi corretto. E al Messaggero, anche qui, l'ira di Emilio: avrà qualche bonus, Nicole Minetti, da chiedere ai giudici. Per esempio, posso fare un'ipotesi, avrà qualche bonus da chiedere alla procura, detto le cose che ha detto, lo si ricava anche dalle intercettazioni, dimenticando che lei al presidente deve tutto, deve proprio tutto, dimentica di essere andata alle feste di Lele Mora quando l'inchiesta era già stata aperta. Cosa le consiglierei? Di stare zitta e brava e anche di chiarire certe storie ancora oscure come quella delle macchine prestate. E che ne pensa, insomma, Emilio Fede di questa memoria difensiva? La giudico una stronzata, fatta per giornalisti in baby doll. A questo punto posso pensare di essere anche accusato di avere assassinato una delle ragazze lungo la strada e di averne nascosto il corpo. Così Emilio Fede reagisce, insomma, a questa... a queste accuse. Oh, la politica si interroga anche su, voglio segnalare, il fatto che Luca Cordero di Montezemolo scende o no in politica. Oggi il Fatto Quotidiano vi dedica due pagine, pagina 6 e 7. Secondo Stefano Feltri c'è un sondaggio in bella mostra sull'apertura del sito di Italia Futura, un sondaggio SVG, il 36% degli intervistati potrebbe pensare di votare Luca Cordero di Montezemolo, l'ex presidente di Confindustria, presidente della Ferrari, che da tempo si vocifera, si dice, forse è pronto a scendere in politica. Che cosa teme però, secondo il Fatto Quotidiano, Montezemolo? Beh, anche la stampa vicina al presidente Berlusconi. E infatti uno basta che prende oggi in mano il giornale, se lo si trova, eccolo qua, e basta vedere il titolo di apertura: dopo Monte Carlo, Montezemolo. A cosa si dedica il giornale nella sua apertura? Beh, al presidente della Ferrari, che, si legge a pagina 2, è imputato per abuso edilizio e falso. Ieri c'è stata l'udienza, il giornale lo definisce così: il nuovo che avanza, Montezemolo nei guai, finisce sotto processo per la casa di Anacapri. Il presidente Ferrari alla sbarra con altre tre persone per presunti abusi edilizi nella sua villa sull'isola. E dunque il giornale, ecco, che attacca così Montezemolo. A proposito, prima abbiamo citato ancora il professor Alberto Asorrosa, filosofo, il quale nei giorni scorsi è finito nell'occhio del ciclone per avere proposto addirittura una sorta di golpe istituzionale nel quale, lo stato della democrazia in pericolo, le forze, anche le forze dell'ordine, prendano in mano la situazione in Italia, beh, c'è stato un putiferio di reazioni, di polemiche. Oggi Alberto Asorrosa sul Manifesto in prima pagina torna a scrivere, e dice, torna a scrivere proprio per rispondere a tutta la valanga di reazioni che ci sono state nei miei confronti. Ebbene, dice Asorrosa nel cuore del suo articolo, che inizia in prima pagina, poi continua in quasi tutta pagina 14. La mia domanda che ponevo allora è questa: è vero o non è vero che esiste in Italia una situazione di rischio mortale per la democrazia ad opera del progetto politico e anche della megalomania dell'attuale presidente del Consiglio? Questo è il punto, questo è il punto, questo è il punto. Lo ribadisce tre volte Asorrosa. Se è vero questo, ne scaturiva la seconda domanda nel mio precedente articolo: come si affronta e si supera una crisi verticale della democrazia che avanza a colpi di infrangibili, inattaccabili, sorde, mute maggioranze parlamentari? È qui che la mia proposta di istituire a partire dall'alto uno stato di eccezione ha suscitato proteste e dissensi anche in campo amico. E poi Asorrosa dice: va bene, accantono la proposta, ma rinnovo la domanda: come si affronta, prima che sia troppo tardi, l'inedita questione per cui il precipitare di una democrazia verso una inaltrettanto inedita forma di governo populistico autoritario avviene a colpi di maggioranza parlamentare? Ci si può accontentare del residuo disperato gioco delle parti all'interno delle Camere? È possibile invece prevedere una consultazione preventiva di tutte le forze d'opposizione per una denuncia clamorosa di quanto sta accadendo? Si può tornare a ragionare distesamente sulle prerogative in materia del capo dello Stato? Non sarebbe auspicabile una dichiarazione solenne da parte di chi può che l'indipendenza della magistratura e il sistema delle garanzie non si possono toccare? E infine, per tornare al linguaggio duro, non sarebbe meglio prevedere e favorire una crisi istituzionale invece di aspettare passivamente tutte le conseguenze negative striscianti? Ecco, queste sono le proposte che oggi Asorrosa, dice, facendo un passo indietro sul golpe, propongo queste domande. Lasciamo la politica per parlare di economia. Beh, come detto, il Sole 24 Ore apre sull'allarme per i conti americani. Ieri c'è stata la chiusura in rosso delle borse europee. La notizia che ha gettato il panico nelle borse, panico forse è una parola eccessiva, ma che molta preoccupazione nelle borse, è il fatto che Standard & Poor's abbia dichiarato che l'America rischia il declassamento da AAA a AA+. Una minaccia che Scrive Daniela Roveda da New York, a pagina 3 del Sole, si è diffusa, esplosa come una bomba sulle borse, provocando appunto il scompiglio generale nel paese. La minaccia di Standard & Poor's è relativa al fatto che se un accordo sulla riduzione del debito americano non sarà raggiunto nel giro dei prossimi due anni, ecco la probabilità, una probabilità su tre di questo downgrade da parte di Standard & Poor's. Ovviamente Obama ha reagito dicendo è una decisione politica, un giudizio politico quello di Standard & Poor's, ma ormai insomma il danno è fatto, nel senso che politica o no, questa dichiarazione certo ha creato gravi problemi per quel che riguarda le borse, e infatti le borse hanno pagato duramente. E questo trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore. L'altra notizia che trovate un po' su tutti i giornali è la vicenda Parmalat. Ne avevamo già parlato ieri, o meglio ieri, nei giorni scorsi. Ebbene, ora c'è stata una decisione importante da parte del Tribunale di Milano, vale a dire quello di assolvere le banche estere. Le banche estere erano imputate di aggiotaggio con alcuni loro funzionari. Le banche erano Morgan Stanley, Citi, Deutsche Bank, BofA e Bank of America. Non sono colpevoli di aggiottaggio, abbiamo sentito anche nel GR, assolte, e Mara Monti racconta la cronaca giudiziaria. Sta di fatto che a questo punto, se il comportamento delle banche e dei suoi funzionari non è penalmente rilevante, i responsabili vanno cercati altrove, ed escluse le banche, ovviamente l'unico responsabile delle manipolazioni è ancora lui, Calisto Tanzi, vale a dire il patron della Parmalat. Tra l'altro, a questo proposito, Il Sole racconta a pagina 6 con Vitaliano D'Angerio che cosa? Beh, quello che è ora il futuro per quel che riguarda i risparmiatori ingannati. Ci sono tre tipi di effetti per gli investitori in obbligazioni Parmalat dopo questa sentenza di assoluzione. Primo effetto è nullo per quelli che hanno già transato, cioè i 32.000 investitori del Comitato San Paolo difesi dall'avvocato Grosso. Il secondo effetto invece è parzialmente negativo per i risparmiatori parte civile nel processo per aggiotaggio contro le quattro banche, che avevano all'epoca rifiutato la transazione. A questo punto dovranno attendere, dopo la sentenza di assoluzione, la decisione dei giudici di Parma, dove è in corso il processo per bancarotta. Da lì potrebbero arrivare notizie positive. Il terzo ultimo effetto riguarda i possessori di bond che non si sono mai costituiti in giudizio, ma per loro ci sono ancora speranze di ottenere soddisfazione nei confronti delle banche che gli hanno collocato l'obbligazione Parmalat. Una soddisfazione però da seguire per seguire in sede civile attraverso l'azione risarcitoria. Questi gli effetti dunque per i risparmiatori. Certo, una notizia che è stata accolta anche con scene di grande giubilo dagli avvocati difensori delle banche che sono state assolte. Un'altra notizia, questa volta di lutto finanziario, che trovate su tutti i giornali è la vicenda dell'improvvisa scomparsa di Pietro Ferrero. L'industria in lutto, titola così Il Sole 24 Ore a pagina 11, è scomparso per un malore mentre stava svolgendo una delle sue passioni della sua vita, vale a dire andare in bicicletta. Era in Sudafrica, dove tra l'altro aveva una casa, Cape Town. Era con il padre ha 86 anni che continua a occuparsi di tutto. C'è il profilo insomma di questo giovane imprenditore che era capo, insieme al padre ovviamente fondatore del colosso Ferrero, insieme al fratello, e c'è anche un bel profilo di Nino Ciravegna che vi segnalo a pagina 11. Il primo barattolo di Nutella, raccontano gli amici, l'aveva rubato a 6 anni come ritorsione contro la severa tutrice tedesca. Forse l'unico atto di protesta di una vita intensa nel segno del dovere e della passione per la Nutella, per i dolci inventati a pieno ritmo, per le attività produttive, passione vera per la bicicletta. Pietro Ferrero amava le due ruote, quando poteva si ritagliava un'ora o una mezza giornata per fare un giro sulle colline delle Langhe, a volte scavallando le Alpi Marittime fino a Savona, e sulla bicicletta è morto proprio ieri in Sudafrica. C'è il profilo di chi era Pietro Ferrero, scomparso ieri in Sudafrica a 48 anni. Che dire per chiudere? Trovate anche molto del tema del nostro sondaggio sui giornali. Noi parliamo ancora, torniamo a parlare della vicenda Europa, della vicenda Francia. della vicenda Italia, della vicenda immigrazione, col blocco dei treni che c'è stato domenica da parte della Francia. L'Unione Europea sta con la Francia. La Farnesina dice ora incidente risolto, ma certo pesa per esempio ancora per l'ennesimo giorno il titolo di Libero in prima pagina: l'Europa è una truffa. C'è Maurizio Belpietro, il direttore, che fa un editoriale nel quale dice: ci sono due cose che non si possono fare in pubblico in Italia per non essere giudicati retrogradi o incivili: parlare male di Napolitano e prendersela con l'Unione Europea. E a proposito dell'Unione Europea dice Belpietro: basta parlarne male, si finisce per essere trattati da idioti e passatisti. Provate a dubitare dell'euro oppure dire che l'Europa è una truffa e vi guarderanno con aria di compatimento, come quando ci si rivolge a chi non è molto intelligente. Se va peggio, sarete trattati alla stregua di un vecchio reperto archeologico. Nell'uno e nell'altro caso le vostre parole avranno l'effetto di una bestemmia in chiesa e attorno a voi palperete con mano la riprovazione. Ma Libero scrive, e lo fa in 4-5 pagine, in realtà l'Europa è una truffa. Questo la sentenza di Libero. Va bene, parleremo nel nostro sondaggio alle 8:30, ora il giornale radio.